Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo nel 2019 ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14 con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Cuori di terra, memoria per i 7 fratelli cervi. Progetto, ideazione e drammaturgia, attori Bernardino Bonzani e Monica Morini. Ideazione e composizione musiche Davide Bizzarri. Alla Casa delle Storie, Reggio Emilia, 23 e 24 aprile 2019. Quelli che quando parlano in pubblico diventano rossi in faccia. Non è mica perché sono timidi, no. Ma perché sono superbiosi. Così diceva mio nonno. Superbiosi. Non vedono mica la gente, vedono solo la loro persona e si impressionano che gli altri li guardano. Così quando la morte li guarda sentono paura e si trovano soli e hanno il terrore della morte, così come avevano paura della vita. Mio nonno era un contadino. Diceva sempre che se i contadini non pensano alla campagna, la campagna si sgretola. Ad aprile è tempo di trapiantare i pomodori. Se piove dopo il 20 di maggio avremo un buon raccolto, ma non deve piovere troppo. Sulla campagna c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, da sperimentare. Così diceva mio nonno. Arare, zappare, potare, nutrire la terra. Sono cose che il contadino conosce e fa da sempre. Bisogna scambiarsi le esperienze tra contadini e studiare sui libri come migliorare la resa. Bisogna conoscerla, questa terra emiliana, con il suo latte grasso e saporoso e le vacche rosse che sono il vero capitale. Ma tutto dipende dal foraggio, ricco di sostanze. Per questo il nostro latte è unico e il formaggio è così buono. Anche il vino è buono. Me lo diceva sempre mio nonno quando d'estate camminavamo in mezzo ai filari. Che se ci passi sotto ti godi l'ombra. E sono curati e puliti come il letto dove si va a dormire. Ma è quando la campagna si ammala che è difficile essere buoni dottori. E quando proprio l'hai curata la terra come tua creatura e sei riuscito a guarirla, allora la volta che si abbatte la tempesta e porta via tutto, distrugge tutto il lavoro. Occorre coraggio. È un grande amore per ricominciare da capo. Ma poi dopo un raccolto ne viene un altro. Antenore, il secondo dei fratelli cervi, l'ho incontrato al casello. Io al casello ci andavo tutte le sere a portare il latte. E tutte le sere lo trovavo là che mi aspettava. Lui mi parlava. Mi faceva ridere. Mi faceva anche tanti complimenti. Allora io gli ho detto che ce l'avevo già uno spasimante. Quell'altro era da un po' che non lo vedevo, ma volevo vedere che faccia faceva quando glielo dicevo. Così lui, Antenore, non insiste neanche con una parola. Mi dice, torna dall'altro, vedi se ti piace di più e poi me lo dici. Dopo qualche sera lo trovo al casello. Mi guarda, ma sta sulle sue. Allora sono io ad andare da lui. No. Mi piaci più tu. Così ci siamo fidanzati. Ma quando lui mi ha chiesto di sposarlo, io non sapevo come fare, perché in casa mia non c'erano neanche i soldi per comprare il vestito. Suo padre, Alcide, dice che lo compra lui il vestito. Così, ad aprile del 33 ci siamo sposati e il viaggio di nozze l'abbiamo fatto andare in giro con la macchina a trovare i parenti. Io ci volevo tanto bene ad Antenore. Ma era un po' preoccupato entrare in quella casa perché c'erano tanti uomini. Loro però erano scherzosi e mi hanno preso in casa come una sorella. Dopo un anno è nata Maria e mio marito ha fatto suonare le campane, che io gli dico: ma cosa fai? Che le campane si facevano suonare solo per i maschi. E lui? Io invece ho pensato che devono avere i medesimi diritti anche le donne. Quello stesso anno, nel 34, abbiamo fatto San Martino. Siamo andati a stare a Praticello, ai Campi Rossi. Venivamo via da Valleré, dove noi eravamo mezzadri. Con i patti della mezzadria finiva sempre che si doveva dare di più al padrone. A forza di togliere non rimaneva più niente. Il padrone poi non voleva le migliorie sul fondo. A lui piacevano le cose senza rischio. E noi invece studiavamo sulla terra per farla fruttare. Erano tempi duri, ma eravamo tutti decisi ad andare in affitto. Il nonno alla festa andava alla messa attraverso i campi per vedere i raccolti dell'uno e dell'altro. Quando arrivava in piazza, gli altri capifamiglia dicevano: e te, Alcide, hai tanto coraggio di questi tempi ad andare in affitto. E lui: io e i miei figli, piuttosto che lavorare per i padroni, siamo decisi. Così in una giornata di novembre siamo partiti. Il nonno e la nonna sul biroccio davanti, con i letti, i mobili, le sedie, i tavoli e i materassi. Poi sui carri più piccoli, con gli attrezzi e le sementi, le donne e i bambini. Dietro venivano le bestie, intorno mio marito e i suoi fratelli in bicicletta. E la gente che ci vedeva passare pensava: ma dove vanno quelli con quelle idee in testa? Quando siamo arrivati ai Campi Rossi, guardiamo il fondo. Sono tutte buche e sassi. Fosse e montagnole, buche e gobbe. Non si sapeva che coltivare con quella terra. Ma poi Aldo, che è sempre stata la testa della famiglia, ha detto: che ci volete fare? Anche l'Italia è così. Pianura e monti. È fatta male, è una terra strana e ha bisogno di aiuto. Prendete questa terra e trasformatela. E poi vedrete che darà più delle altre. Così insieme a Gelindo si mette a studiare per livellare la terra. Intanto Ferdinando fa una proposta. Per irrigare i campi non bisogna dipendere in tutto dall'acqua dell'ente di bonifica. Ci vorrebbe un pozzo. Un pozzo? C'è un pozzo nei campi, ma è secco. È secco, ma si può riattivare. Sì, e chi ci va fin là sotto a lavorare? Ci vado io, dice Ferdinando. E si fa calare giù con una corda a più di 20 metri sottoterra. Ci rimane tutto il giorno. Quando vuole uscire fuori, da due strattoni alla corda, così come i palombari. Là sotto fa un freddo da gelare, ma Ferdinando continua a scavare, a togliere i sassi, il muschio, il fango. E l'acqua si fa trovare e viene fuori, prima piano piano, poi più alta, più su, fino a uscire fuori, a scorrere nei campi intorno. I vicini, brava gente, vengono a sapere che vogliamo livellare la terra. Ma sono 65 biolche, come farete? Per un anno non avrete raccolto. Sì, è vero, risponde Aldo. Ma poi avremo il doppio e ogni anno sarà sempre di più. All'ente di bonifica ci prendono per matti. Ehi, cervi, che ci volete fare con la terra? Giocare a biliardo? A biliardo no, perché a biliardo ci vogliono le buche. Noi invece le buche le togliamo tutte. Il giorno dopo arrivano i camion con i binari e 15 vagoni. Scarichiamo la roba. e mentre scarichiamo, cantiamo. Il contadino vicino fa finta di lavorare proprio sul confine per guardare quello che stiamo facendo e dice: ah, son matti i cervi, son diventati matti. La nonna Genoefa guarda i vagoni, i binari, i suoi figli e dice: siamo signori, siamo signori. Macchine, uomini, campi, ecco il progresso. Aldo dirige l'impianto, Gelindo le squadre degli sterratori, il papà Alcide insieme ad Agostino pianta i picchetti per il livello, ma il cavallo in testa ai vagoni non ce la spunta e i lavori sono già finiti prima di cominciare. Ehi cervi, prendetevi la locomotiva, così vi passa la voglia di far le cose matte. Papà, abbiamo fatto 30 e facciamo 31. Così il vecchio Alcide va alla fiera insieme a Gelindo e compra un torello. Non era nei piani il torello, ma ormai eravamo lanciati e non ci potevamo fermare. E quando lo portano a casa, tutti lo toccano. E lui, il torello, sbuffa, zampa e scappa. Battista lo chiamiamo e gli mettiamo un bel fiocco al collo, rosso. Alla mattina lo attacchiamo ai vagoni e lui se li porta via, che è una bellezza. E il contadino vicino di casa gli fa: Ocide, non è sciupato un toro per un lavoro di fatica? E io, che sono di razza buona, non sono sprecato a faticare. Tutto il giorno i nostri uomini lavorano e cantano, cantano e lavorano come i soldati lanciati all'attacco con la musica. Quando smettono di cantare, il vicino viene a vedere se sono scoppiati e allora loro ricominciano a cantare. Un giorno proviamo a sterrare una gobba. Ci troviamo un sasso, un macigno enorme. Proviamo a scavare, proviamo con le leve, ma non viene. Allora Aldo prende la miccia e il tritolo e si mette a preparare una bomba. Fa allontanare tutti e dà fuoco. Un botto da crepare. Il pietrone si spacca in 100 pezzi e i vicini corrono a vedere se siamo saltati per aria. E vengono anche i carabinieri, che ci vogliono denunciare per fabbricazione clandestina di bombe. Ma Aldo ci parla e con un bicchiere di vino mettiamo a posto tutto. Passano i mesi, le stagioni. Le gobbe spariscono, le buche si riempiono. Più di 20 ettari di terra livellata, con la giusta pendenza per far scorrere l'acqua, per irrigare un campo dopo l'altro e alla fine raccoglierla l'acqua senza che si fermi o marcisca. Ecco, finito, finito. È finito il lavoro, è finito. Tutti i vicini sono invitati, anche i carabinieri e quelli dell'ente di bonifica. Noi donne prepariamo i cappelletti, l'erbazzone, gli occo. La nonna Genoefa, che è brava a far la torta di riso, la mette a cuocere in una teglia grande come il sole. Un profumo tutto intorno. E poi vino, vino a volontà per tutti. A Battista al toro gli mettiamo una bella corona al collo. Poi tutti giù nell'aia, a ballare, a far festa. E i vicini girano per il fondo. Pestano i piedi per sentire se il terreno è sodo. Guardano l'acqua scorrere e irrigare un campo dopo l'altro. E alla fine fanno: non c'è che dire, cervi, un bel lavoro. Non c'è che dire. Lavorano i nostri uomini, ma ci tengono ad avere molta resa con poca fatica. Quando ci sono i lavori grossi, come mietere o falciare, sono tutti insieme, ma poi ognuno sa quel che deve fare. Aldo e Antenore nei campi, Agostino e Ovidio nella stalla, alle api e alla cantina Ferdinando, Gelindo ai maiali. Per gli affari ci pensano papà Alcide, insieme a Ettore e Aldo. Nella stalla riusciamo a inventare un nuovo sistema per abbeverare le vacche. Abbeveratoi con i coperchi di legno, così il fieno non ci finisce dentro. Dai, che forse abbiamo finito di portare dei mastelli di acqua. Nessuno dei vicini ci scommette una cicca che le vacche riescono a sollevare il coperchio e a bere da sole. E vedrete che se hanno sete le vacche imparano anche a sollevare il coperchio e a bere da sole. In casa, tutte le volte che sentiamo cioccare il legno del coperchio che sbatte quando si chiude, Ovidio per scherzare ci grida: «Vè, ragaz, la vacca la bu, dai che beviamo anche noi!» I nostri uomini sono fatti così. Sono curiosi di sapere come cambiare le cose, come migliorarle. Sì, migliorare la resa del grano e del latte, prima di tutto. Con gli altri contadini si parla, ai mercati, nelle fiere. Ma quello che non sappiamo e ci interessa, lo leggiamo sui libri di tecnica e di agraria e sulle riviste che ci facciamo arrivare fino a casa. L'apicoltore d'Italia, i manuali sulle viti, sull'allevamento del bestiame, del maiale. Noi donne pensiamo ai conigli, ai polli, alle anatre. Poi ci sono le oche, da nutrire e spennare, che la nonna Genoveffa ne fa cuscini e piumoni per tutti. Le vacche da mungere e la casa da mandare avanti, che 8 uomini e i bambini, non son pochi, da nutrire e mettere a tavola. E la sera nella stalla si continua a lavorare. Fino a Natale c'è da filare, poi dopo l'Epifania si comincia a tessere, a cucire, a guastare i vestiti vecchi per farne di nuovi, a mettere le pezze. Le braghe con le pezze al culo e le ginocchia mi mai piaciuti. Sì, ma la nonna Genoveffa faceva bene anche quello. Lei faceva tutto bene, tutto con amore. Noi, le nuore, ci considerava come figlie. Ci insegnava le cose senza farci pesar niente. La sera nella stalla, mentre lavorava, ci contava le fole, le storie. Poi, quando aveva finito i suoi 3 fusi, perché era più svelta di noi, prendeva il Vangelo e cominciava a leggere. Ma mica solo il Vangelo, anche i romanzi. E leggeva bene i dialoghi, con voce di teatro, una diversa dall'altra, che ci faceva appassionare. Noi l'ascoltavamo incantati. E intanto qualcuno mangiava pane verza. La verza cruda d'inverno, raccolta sotto alla neve. È tenera e croccante insieme, profuma l'aria. La nonna Genoveffa leggeva. Leggeva la storia del conte Ugolino, dalla Divina Commedia. Con i figli che gli chiedono da mangiare, lui disperato che non può più dargli niente. E poi dai promessi sposi. La storia dell'innominato. Ma quella che le piaceva di più era la monaca di Monza, la Gertrude, che non sapeva dire di no a quel padre prepotente e finiva rinchiusa in convento. Noi eravamo curiosi, facevamo delle domande e lei, la Genoveffa, spiegava. Io la monaca di Monza non la capisco. Mi piace, la leggo, la rileggo per scusarla, ma mi fa fatica. Perché anch'io, quando ero giovane, ero timida e riguardosa. Chinavo il capo davanti alle prepotenze, perché la sera lo alzavo verso il Signore, che comprende tutto e vede dentro il cuore di ognuno. Ma poi qualcosa cambiò. Mi ricordo che da ragazza, in estate, veniva da noi il padrone a villeggiare in campagna. Mio padre era mezzadro, così noi al padrone dovevamo lasciargli tutto il piano con le stanze da letto e io finivo rintanata su in solaio. Un anno venne una stagione di piogge che, a forza di piovere, il tetto si sfondò. Io mi prendevo i raffreddori, i dolori alle ossa, così andai dal padrone a chiedergli di ripararmi il tetto. Che era anche interesse suo, della roba che si marciva tutto. Lui diceva che una lamiera sarebbe bastata. Una lamiera? Una lamiera. Con la pioggia la lamiera si staccò e io mi ritrovai da capo a 12, con il solaio allagato. Il padrone diceva: «Domani, Genoveffa, ci pensiamo domani». Una sera, mentre ero lì che pregavo, comincia a scendere l'acqua a pisciarelle. che mi bagna il letto. Il solaio lo allaga tutto. Allora io mi alzo e prendo un chiodo grosso. Comincio a scavare. Scavo tutta la notte un bel buco che dà proprio sopra la camera da letto del padrone. Poi con le mani aiuto l'acqua a infilarsi dentro, tanta, abbondante, finché... La padrona che urla. Poi si sentono i due che discutono. E vien su il padrone che mi chiede se mi ero accorta del buco. No, gli dico, che il buco non l'avevo visto, ma che con tutta quell'acqua il pavimento si marciva e presto avrebbe avuto me e tutti i suoi mobili sulla testa. Allora il padrone mi guarda e fa: hai proprio ragione, Genueffa, bisogna che lo facciamo riparare. E così ha fatto il giorno dopo, perché ero timida e riguardosa. Ma neppure il Signore riuscivo più a pregare con tutta quell'acqua. Così dovevo mettere giudizio al padrone, se non con le buone, con le cattive. La Genueffa era fatta così. A lei piaceva leggere di tutto. Risparmiava anche i fogli di giornale dove c'era incartata la spesa. E di notte, dopo i lavori, li leggeva. L'amore per i libri ce l'ha dato lei. Noi lavoravamo la terra, sì, ma eravamo curiosi. Non leggevamo solo i libri di tecnica, di agraria, ma anche quelli di politica, di storia. Erano spesso libri proibiti perché parlavano di idee nuove, di uguaglianza, di giustizia. Quelli che Aldo ci aveva fatto conoscere dopo il carcere, quando durante il servizio militare, per un'ingiustizia, per colpa di un sergente fascista che lo aveva preso di mira e lo voleva rovinare, era stato condannato a 5 anni di galera. E lì in carcere, a Gaeta, da un gruppo di prigionieri politici che insieme parlavano e discutevano, Aldo aveva conosciuto un nuovo modo di pensare, una nuova fede. L'università del carcere la chiamava. Il nonno Alcide aveva fatto di tutto per tirarlo fuori, perché lo sapeva innocente. Aveva speso anche 12.000 lire per un avvocato, che erano tanti soldi, ma per un figlio, lui diceva, non son mai abbastanza. Aveva anche scritto al re molte lettere, ma in posta le lettere le bruciavano tutte. Così, mentre l'avvocato mangiava i soldi e non faceva niente, Alcide aveva preso la lettera ed era andato fino a Parma a piedi per portarla a un onorevole che gliela consegnasse a mano al re, ed era riuscito a scorciargli la pena a soli 2 anni, 25 mesi di carcere. Un vero dispiacere per la nonna Genueffa avere così un figlio lontano. Ma poi Aldo torna e ci spiega che il carcere è anche una scuola di verità per chi la sa capire. Mamma, papà, credevo che l'Italia fosse tutta qui. Gente che lavora, un governo che governa, e lo sforzo dell'uomo per diventare migliore, per conquistarsi il cielo. E invece c'è un'altra Italia che non conoscevo, l'Italia del carcere. Ma se aveste conosciuto quanti italiani sono nelle carceri, e solo perché hanno fatto il loro dovere, perché hanno voluto la giustizia, la bontà. E sì, perché oggi chi fa il suo dovere e vuole i suoi diritti rispettati si mette contro allo Stato. Ma la vedete la storia delle nostre campagne? Si comincia con le lotte contro la legge sul macinato e rimangono i morti dalla nostra parte. C'è lo sciopero degli scariolanti e vengono fatti arrestare. C'è una manifestazione a Reggio per la libertà e per il pane. E anche lì arrestano e confinano. E poi guardatevi un po' intorno. Voi, papà, pensate un momento alla vostra storia, alla vostra vita. Avete sempre lavorato da bracciante e poi da mezzadro. E se avete migliorato la vostra condizione, non è grazie ai padroni, ma è perché nelle nostre campagne i lavoratori hanno fatto valere i loro diritti più che in altre regioni. Eppure noi lavoriamo il fondo. Fatichiamo quasi 12 ore al giorno. Abbiamo i rischi dell'acqua, del vento, della grandine. E quando c'è il raccolto? Quando c'è il raccolto viene il padrone che vuole la metà. Quell'altra tua metà. Quella che non ha lavorato lui, ma che hai lavorato tu, con le tue braccia. E questo solo perché la terra è sua e nemmeno la conosce. Ma vi ricordate a Olmo, quando venne il padrone sul fondo e disse: «Ma guarda che bel grano turca!» E invece era trifoglio. Non la conoscono la terra, non la conoscono. E voi, mamma, vi ricordate di quando eravate incinta di Ettore, il più piccolo? Lavoravate i campi in fretta negli ultimi giorni, fino a svenire dalla fatica per recuperare quel mese di letto che dovevate fare dopo il parto. A voi, mamma, che pregate, dico, ricordatevi di quando doveste fare il buco nel pavimento per costringere i padroni a ripararvi il tetto. Voglio dire che oltre alle preghiere bisogna metterci l'azione, bisogna agire contro le prepotenze, e questa forza non può che venire dall'unità e dalla coscienza di tutti quelli che lavorano come noi. Così il mondo va avanti. Sera che Aldo era tornato dal carcere, Antenore mi era venuto a trovare perché eravamo ancora amorosi. Io lo vedevo che lui era strano, era diverso. Balbettava, aveva gli occhi lucidi, gli slittava perfino la lingua. Antenore, di su, cos'è che hai? E lui, in casa mia, ridono anche i muri. Avete festeggiato? No, non abbiamo bevuto. Abbiamo ascoltato Aldo che parlava. Dice che le cose devono cambiare. Noi dobbiamo cambiare. Da così a così. Dobbiamo cambiare da così a così. Dobbiamo cambiare da così a così. E farlo capire anche agli altri. Agire. Bisogna agire. Campegine, in un paese vicino, i nostri uomini si offrono di sistemare la biblioteca, di rifarne lo schedario. Prendono i libri fascisti e insieme ci mettono quelli sospetti. Poi chiamano amici, giovani, donne. Insieme a un romanzo, a un libro di tecnica o d'agraria, danno da leggere Gorky, La Briola, Marx. Alla fine ci si riunisce tutti giù a parlare, a discutere. Ma poi a qualcuno scappa una parola di troppo. Il maresciallo dei carabinieri lo viene a sapere e la biblioteca è belle chiusa. Maresciallo, perché mandate a scuola la gente se poi gli impedite di studiare? Il maresciallo non sapeva cosa rispondere, ma la biblioteca andava chiusa. Quando allora si parlava di Mussolini, della guerra in Africa e di tante cose brutte, la nonna Genoefa diceva: voglio fare una foto. Io, Alcide e tutti i miei figli. Perché non si sa mai. E Ferdinando, suo figlio, che l'ha chiamata per andare alla guerra in Africa, la riceve davvero. Va dal prete a confessarsi per sapere se era giusto o no andare alla guerra. E il prete? Tra tutti i nostri doveri, figliolo, c'è anche quello di servire la patria. Sì, ma perché devo andare ad ammazzare gli abissini? Non è da cristiani. E poi una madre nera non vale come una bianca. Se rispetto la mia, perché non dovrei rispettare quella nera? Gli ordini sono ordini e bisogna seguirli. Sì, ma io penso invece che anche là in Africa, ci sono degli esseri umani, anche se neri, e che non è giusto andarli ad ammazzare. Adesso vai, vai che ho delle altre persone da confessare, vai, vai, vai a casa, va, va. Ferdinando decide da solo di non andarci alla guerra in Africa, ma non è neppure più andato in chiesa perché diceva che i comandamenti erano 10 e ne avevano inventato un altro che dava il permesso di ammazzare e di salvarsi l'anima. Intanto continua l'attività politica. Giriamo casa per casa, in tanti ci aiutano. Raccogliamo dei fondi per aiutare le famiglie dei confinati politici. Una donna va a denunciare Gelindo perché aveva parlato male di Mussolini. L'arrestano. Viene l'interrogatorio e lui: adesso l'arrangio io, quella donnetta là. Si fa crescere una gran barba nera, nera, le pianta addosso due occhi da matto che lei si impressiona e sviene. Ah. O poi dice che non era vero niente, che si era inventata tutto. Am su sbaglieda! Intanto però i contadini ci guardano preoccupati. Hanno paura, paura dei fascisti e perfino paura di parlare con noi. Ma Aldo dice che il fascismo non ci può fermare, non può fermare il progresso. E così va a Reggio e compra un Landini da 50 cavalli. Un trattore! Il primo che si vede da queste parti. Altro che arare da soli e far fatica, c'è il trattore adesso! Lo prestiamo a tutti, così si lavora insieme, in amicizia. Aldo lo porta a casa e sulla strada tutti gli vanno incontro. Tutti a guardare a bocca aperta quegli ingranaggi, quei cingoli. E sul cofano un bel mappamondo! Porto a spasso il mondo! Porto a spasso il mondo io! Guardate, qui il mondo, lo conosciamo bene noi. E dei contadini uniti. E non credete a quelli che dicono che è troppo grande, che non è per noi. Vogliono solo che rimaniamo ignoranti. Porto in giro il mondo! C'è la guerra. E i nostri uomini fanno di tutto per non andarci. Ferdinando, che ha la doppia ernia, va alla visita militare al posto di Aldo e lo fa stare a casa. Poi anche ad altri giovani, ad amici, diciamo di non presentarsi se vogliono evitare la guerra. Così cominciamo a nascondere della gente in casa che le loro famiglie non si arrischiano più a tenerli. C'è sempre più miseria. La nonna per dare carne e grano ai banditi fascisti tortura i contadini con spiate, persecuzioni, ricatti. Tutto all'ammasso, grida il fascio. E noi invece diciamo, niente all'ammasso. Il grano lo nascondiamo dappertutto, in tutti i buchi. Poi una volta a Gelindo, per salvare un po' di latte e il bestiame, viene l'idea di truccare le vacche come se avessero l'afta epizotica. Prende un ferro da stiro rovente e fa certi segni sul muso delle bestie che sembrano davvero la copia dell'afta. Quando viene l'ispettore sanitario nella nostra stalla non ci sta neppure a pensare. Brutta infezione questa volta. E ci rilascia un certificato che dice che nella nostra stalla è scoppiata un'epidemia. Un'epidemia? No! 40 giorni di latte e burro in libertà, altro che la nonna! Quando a casa nostra si presentano degli operai, spesso delle reggiane, le fabbriche dove si costruiscono gli aeroplani da guerra italiani e si riparano anche quelli tedeschi, noi diamo agli operai carne e farina. In cambio chiediamo dei pezzi di motore. Anche così si ferma la guerra. Ma non basta. Non basta la solidarietà con gli operai, ci vuole qualcosa di più. Agire, bisogna agire. Così pensiamo degli atti di sabotaggio. Un giorno ci viene l'idea che se manca la corrente elettrica, le fabbriche, quelle che costruiscono per la guerra, sono costrette a fermarsi. Agostino e Ferdinando, insieme a nostro cugino Massimo, trovano una sega d'acciaio, la provano sulla finestra della cucina e poi vanno a Sant'Ilario per segare un palo dell'alta tensione. Ci mettono tutta la notte. È inverno, c'è la neve, le mani si ghiacciano e fanno male, devono usare dei fazzoletti. Ma dopo tanta fatica, il palo viene giù con uno scoppio di folgore. I fascisti vanno in bestia, si mettono a studiare i passi stampati sulla neve e girano casa per casa a misurare le scarpe, come nella Fola di Cenerentola. Noi donne che abbiamo capito tutto, zitte, laviamo i fazzoletti, nascondiamo le scarpe, le portiamo a Bibbiano, in un paese vicino, dai parenti, in modo che nessuno le trovi e sospetti. Aldo, intanto, cerca di allargare l'azione politica. Prende nuovi contatti, ma scarseggiano i collegamenti. Per forza. Quasi tutti i capi antifascisti sono in carcere. Noi si aspetta un funzionario. E invece arriva una compagnia teatrale di quelle girovaghe, mandate dall'organizzazione clandestina. Sono i Sarzi, che recitano drammi sociali e romantici. Lucia, la figlia del capocomico, è bella. Due occhi di brace quando dal palco, con le parole della Tosca, invoca giustizia contro l'orrore della tirannia. I fascisti in sala neanche se ne accorgono che gli sgherri dell'infame tirannia sono loro e non comprendono neanche perché il pubblico applauda tanto col cuore. Alla fine dello spettacolo ci si riunisce, si parla, si organizza il volantinaggio e non solo. Aldo scrive, Gelindo stampa con una macchina d'inchiostro che ci ha portato la Lucia che stampare manifesti clandestini è diventato un lavoro come gli altri. I manifesti finiscono all'uscita dei teatri. Contadini. Nelle piazze. A Reggio, voi siete una forza Padre, irresistibile. Mantova. Che unita agli operai. Potete fare cessare la guerra. Guardatevi un po' intorno. Vi hanno tolto i figli. Vi hanno tolto il grano prodotto da voi. Vi requisiscono l'uva. Ma sopporteremo sempre così. No, no, basta, basta. Fratelli contadini, anche noi abbiamo il diritto di vivere. Anche noi siamo degli esseri umani. E non bestie, come ci tratta e considera l'attuale governo. Mettiamo il basta con la guerra e il fascismo. In che modo? Alleiamoci con gli operai. I prodotti delle nostre fatiche non li consegneremo più ai ladri degli ammassi, ma li venderemo a dei prezzi umani ai nostri fratelli operai. E così pure le uova, le massaie, non le daranno più a quei pancioni. Gettiamo la maschera della paura, perché è solo la paura che fa forte il fascismo. Il fascismo non è che un cadavere che va in cerca di sepoltura. Le caschè, ma chi è caschè? È caduto il fascismo. Mussolini è in galera. Mussolini in galera? Sì, Mussolini è in galera. Allora dobbiamo fare una festa, eh? Una bella pasta asciutta per tutti, che la gente ha fame la gente. Sì. Allora si va dal cascinaio a prendere il burro e il formaggio. La farina ce l'abbiamo già. Altri contadini ce la danno nelle case intorno. Noi donne prepariamo la sfoglia. Più di 10 quintali di pasta che si fanno cuocere per tutti. Ed è tutto un bolliri, un affaccendarsi intorno ad 8 paioli che sembra che la pasta dica: mangiami, mangiami, mangiami. Adesso che il fascismo e la tristezza sono andati a ramengo. Riempiamo i carri con i paioli. Per la strada i contadini salutano. In tanti si accodano al carro. È il più bel funerale del fascismo. Scarichiamo in piazza la trattoria. Uno dice: mettiamoli tutti in fila per la razione. Ma perché? Se uno passa 2 volte, è segno che ha fame per 2. Allora via! Pasta asciutta allo sbrago per tutti, finché ce n'è! Chi in piedi, chi seduto, tutti fanno onore alla pasta asciutta! Ma poi arriva il maresciallo dei carabinieri e dice che questi assembramenti sono vietati! Maresciallo! Rispondo io di tutta questa gente. Venite, venite anche voi e accomodatevi! Guarda quei fascistelli laggiù. Gettano via la camicia nera. Ma sì, va là! Mangiate anche voi due che vi fa buono! O uno la vuole tenere perché dice che ha solo quella camicia lì. Lo vedi come ti ha ridotto il fascismo? Con una camicia e basta. Il 25 luglio 1943 era caduto il fascismo. La radio, la notizia, l'aveva data in silenzio alla sera tardi, che pochi l'avevano sentita, ma quei pochi l'avevano detta a tutti quelli che incontravano. Era già cambiato qualcosa. Si poteva parlare, respirare, dire le cose ad alta voce. Basta nascondersi. In città di notte qualcuno si arrampica sulle inferriate fino ai balconi dei palazzi e con il martello che si usa in fabbrica comincia a staccare i fasci dai muri. Il giorno dopo la gente esce per le strade, si riunisce nelle piazze, non solo a Reggio, dappertutto nei paesi. È una giornata di sole. Chi con le bandiere tricolori, chi con le immagini del re. Ci sono gli operai con le bandiere rosse. Il corteo sfila esultante, pacifico, per le vie del centro e punta dritto alle carceri di San Tommaso. Chiediamo la libertà politica per i prigionieri. Dentro ci sono anche gli operai delle Reggiane e della Lombardini. Le grandi fabbriche meccaniche di Reggio ci lavorano migliaia di persone, tutte fabbriche militarizzate al servizio della guerra adesso. Gli operai li avevano arrestati in primavera perché scioperavano. Che con un etto e mezzo di pane nero al giorno che passava loro la tessera non ce la facevano a stare in piedi. Allora li avevano arrestati, torturati, malmenati. E alcuni di loro erano ancora dentro insieme a molti antifascisti. Siamo tutti davanti alle carceri. Gridiamo e premiamo contro il portone. Da dentro non si sente niente. E allora si aspetta. E finalmente le porte si aprono. Eccoli, escono patiti e sofferenti tutti i testardi antiregime. Hanno barbe e occhi frizzanti. Ci abbracciano e sono tutt'ossa. Altri invece sono grassi, acquosi, come andati a male nel buio. Noi donne vorremmo andare in città, vedere la festa, partecipare. Ma non si può lasciare tutto, che c'è troppo da fare a casa. Alcuni dei nostri ci vanno, ma... le notizie che portano ci tolgono la voglia di ridere. Badoglio, il nuovo capo del governo, dice che la guerra continua a fianco dei tedeschi e che ogni manifestazione di disordine o di protesta deve essere repressa, senza esitazione. Gli operai alle Reggiane non ne possono più di lavorare per la guerra fascista, vogliono fermare la guerra, fermare la produzione. E allora incrociano le braccia. E infilano i cancelli per uscire, come un fiume di uomini. Basta! Usciamo fuori! Manifestiamo per la pace! Soldati! Voltate i vostri fucili contro i tedeschi! Aiutateci a liberare l'Italia! Fatelo per noi! Per le vostre madri, per le vostre spose. Basta con la guerra, basta! Hanno sparato contro gli operai che avanzavano in silenzio verso di loro. Per abbracciarli, quei soldati che stavano lì con il fucile puntato. Per abbracciarli come fratelli, per impedirgli di sparare. All'ufficiale quella carogna che grida: io sparo! Sparo, noi spariamo, state attenti! Non ci badano gli operai, continuano ad avanzare, vanno avanti, come una barriera. Sono a un passo. Arretrate! E loro niente, vanno avanti. ma poi una raffica che spacca il silenzio. Tutti che gridano, che scappano dietro agli alberi. Ma a terra, sul piazzale, rimangono corpi insanguinati. 9 operai morti che volevano la pace. C'era una donna tra loro. Perdeva sangue dalla pancia. Era incinta. Aveva un bambino dentro. Settembre 1943. Armistizio. I tedeschi non sono più alleati, ma nemici. La popolazione fa come le sabbie mobili, inghiotte i soldati italiani per salvarli dai tedeschi. Si rischia la propria vita e quella dei familiari, ma i ragazzi vengono fatti entrare dalle finestre, si calano corte dai balconi. Donne prendono a braccetto uomini mai visti. Così che su 200 soldati italiani a Reggio, i nazisti ne trovano soltanto 3. A casa Cervi, in 3 mesi, diamo rifugio a più di 80 persone. È tutto un va e vieni di gente, non solo italiani, anche stranieri. C'è tanta farina da setacciare che il pane si deve fare doppio. In casa si sta attenti a parlare, che è una regola che conoscono anche i bambini. Quando i nostri uomini con un'azione riescono a liberare i prigionieri del campo di Fossoli, noi donne facciamo trovare loro i tinelli per il bagno, per la barba. Poi aggiustiamo i panni per farne abiti civili. E la sera si cerca di preparare un po' di zuppa per tutti. È sceso un aviatore americano con il paracadute in campagna. Alla mattina viene una staffetta a dircelo. Troviamo l'americano che se ne sta disteso nel paracadute, bianco, come in un letto matrimoniale. Lui grida, è ferito ad una gamba, perde sangue. Pensa che siamo fascisti. Allora noi diciamo, partigiani! L'americano ride contento. Lo prendiamo con noi e lo trasportiamo fino a casa nostra. È un tipo fatto a suo modo. Quando vede la nonna Genoveffa, l'abbraccia e la bacia come fosse sua mamma. Poi vede il letto, bianco, candido, pulito. Si sdraia e riesce a urlare «Hurrah!» che ci fa ridere. Ferdinando gli pulisce la ferita, lo fascia con la benda migliore, quella che tesseva la Genoveffa. E la sera pensiamo di preparargli un po' di pollo lesso per tirarlo su, che è magro, magro, ridotto male. Lui mangia la carne e sputa la pelle. A Piesmì e la pelle al Putin? Il nonno Alcide si arrabbia e va via. Che il pollo era come oro e nessuno di noi ne mangiava. Sì, ma non gliel'abbiamo mai fatto mancare. La pelle abbiamo imparato a toglierla e la mangiavamo noi. A un certo punto a casa nostra ci sono russi, inglesi, sudafricani, neozelandesi, canadesi. Agarentot, tutta la terra. Ognuno parla la sua lingua. Chi può dà una mano nel lavoro dei campi. E alla sera si cantano le canzoni del proprio paese. Per l'ospitalità noi non chiediamo niente. Facciamo così con tutti. Anatoli, il russo, è bravo a lavorare nei campi, Ma un giorno si arrabbia. Se la prende coi fascisti che danno 5 chili di sale a chi denuncia i partigiani. Fa certi segni davanti alla nonna Genoveffa come per dire: se volete salare l'acqua della minestra, potete tagliarmi un orecchio e buttarlo nella pentola. Vale come una manciata di sale. Gelinde lo prende per un braccio e dice: non ti preoccupare, russo. La nostra forza viene da là, dalla terra. Quando è ora, è ora. Come dice Radio Mosca, è il momento di levarsi in piedi e combattere. Nessuno crede che la libertà, la pace, arriveranno dagli alleati come servite su un vassoio d'argento. Anche noi la pensiamo così. Alla mattina presto, sull'Aia, è pronto il carro per la montagna, carico di armi, di viveri. In tutto siamo una dozzina. Decidiamo che a partire di noi sono Aldo e Agostino. Ci chiamano la Banda Cervi. Agostino, lui, è un canterino, ma stamattina non ce la fa a cantare davanti al carro. Pensa alla sua Irnes così bella, ai suoi tre figli. Ma poi prende fiato e inizia a cantare. Sui tetti bianchi dalle nevi, quando l'inverno se ne vien, spesse volte nelle notti sento i brividi del cuor. Svegliami un po', soffrir non vo, l'inverno mi fa paura, vicino a te, mio dolce amore. Aldo mi aveva detto, sarai più bella, si dovranno vedere i morti per le strade, e neppure noi sette ci conteremo tutti alla fine. E all'ombra ma delle il mondo poltrine, sarà cambiato. Tu mi dirai e mi farai cose divine. In montagna con loro c'è anche Lucia Sarsi, che insieme ad Aldo tiene i contatti con l'organizzazione clandestina. È autunno, comincia a far freddo, abbiamo abiti leggeri e rattoppati e scarpe che la montagna se le mangia. Ma c'è da andare. I fascisti a Cervarezza prendono i giovani per mandarli a combattere. Chi si rifiuta finisce prigioniero in Germania. Ma noi siamo pronti ad attaccare. Ma il comitato clandestino si oppone, li ferma. Non vuole rischiare la cattura o la sconfitta del suo primo distaccamento partigiano. Ma loro sono pronti ad entrare in azione. Le armi e i vestiti che abbiamo sembrano usciti da un vecchio baule teatrale. Un vecchio moschetto, un fucile a baionetta, una rivoltella per signora, un'enorme pistola come quella che usava il conte di Montecristo. Occorrono munizioni. Mettiamo ai voti la proposta. D'accordo, assalteremo la caserma dei carabinieri di Toano. Per arrivarci a Toano ci vogliono almeno 5 ore di marcia. Allora Geppi, il sudafricano, fa una proposta. Perché non assaltiamo, non prendiamo una macchina? Detto, fatto. Il furgoncino è rosso. Sale dalla strada di sotto a fatica. I tre russi, con il fucile spianato, si buttano in mezzo alla strada. Oh, nuvidenze! Il proprietario della macchina, quando sente parlare in russo, si impressiona e ci porta fino a Toano. 5 paia di scarpe, 3 pistole, munizioni e una radio. Questo il loro bottino. Entrare non è stato difficile. Dante Castellucci e Otello Sarsi si sono spacciati per militari che volevano presentarsi. Il piantone all'ingresso si chiude dentro e comincia a ripetere «Documenti! Documenti! Documenti!» Allora Otello gli grida «Apri, stupido!» E siccome per lo più alla gente non piace sentirsi chiamare stupido, il maresciallo tutto rosso in faccia apre la porta. E noi in 2-2-4 siamo entrati e senza sparare un colpo li abbiamo tutti disarmati. La loro prima azione partigiana dopo un mese su e giù per i monti senza un appoggio. A Tapignola questa volta li aspetta Don Pasquino Borghi. Li accoglie dopo 7 ore di marcia, tutti affamati. In tavola ci sono vino, polenta, formaggio. Un distaccamento partigiano che mangia a casa di un prete. E lui, Don Pasquino, alla fine li chiama in chiesa. Si mette all'organo e suona una corale. Don Pasquino, quando ti guarda, ha occhi intelligenti che ti studiano, aperti. Fa battute sui russi che non credono in Dio. E adesso sono lì, nella sua chiesa. Tutto è possibile, Don Pasquino, gli dice Aldo. I cristiani sono amici di tutti i lavoratori. molto più dei fascisti. E la nostra amicizia esiste in tutto il mondo. Ti ho capito a te, Aldo. Ti ho capito dove vuoi arrivare. Sorride, Don Pasquino. La notte dormono in canonica, ma non possono rimanere da Don Pasquino per sempre, che rischia grosso, che se i nazisti lo vengono a sapere non guardano la tonaca, non guardano in faccia nessuno. Così i nostri uomini ripartono, compiono azioni e sabotaggi in pianura e in montagna, ma manca loro tutto: i viveri, le armi, i collegamenti. Tornano a casa. A casa ci sono più di 30 rifugiati. Troppi. Dal CLN, la Lucia Sarzi ci fa sapere che li dobbiamo sfollare, che il rischio è grande. E quelli che se ne possono andare con le proprie gambe se ne vanno, ma gli altri? Dove vanno gli altri che non sanno dove andare? E così rimangono con noi, a casa nostra, che son fratelli. Sono venuti all'alba a prenderli. Più di 150 camicie nere che sparano. Non entrano dentro, no. Incendiano il fienile. Sparan dentro. Sparan fuori. Un fumo bianco, denso. Poi il tetto del fienile comincia a crollare. Allora Aldo ha paura che incendino il civile, dove siamo noi, le donne con i bambini. Così i nostri uomini decidono di arrendersi. Li portano via, che non abbiamo neppure il tempo di un abbraccio. Ci avviamo lungo la strada che è ancora buio, solo il bagliore della nostra casa che brucia. Noi donne continuiamo a guardarci indietro. Solo i bambini non si voltano più. Poi una vicina ci fa segno di entrare, ma il milite fascista si oppone. Lasciate stare, non son cose che vi riguardano. Come? Non son cose che ci riguardano. E questi bambini che tremano dal freddo. E questa mamma che non lo sa dove gli han portato i figli. Allora il milite ci lascia passare e lì aspettiamo i parenti che vengono a prendere i bambini. Sono passate 2 ore. Io non resisto più, voglio andare a casa a vedere, che ho paura di trovarli tutti morti, ammazzati per la strada. Vado da sola. Lungo la strada non c'è nessuno, solo una sentinella sul ponte. Dove sono i nostri uomini? In prigione! Sotto il portico la stalla continua a bruciare. Tutte le bestie scappate per i campi. Lì c'è uno che conosco. Mi aspetto una parola di conforto, lui invece... Però anche loro facevano delle cose. Allora entro in casa, che hanno saccheggiato tutto. In cucina dei fascisti stanno arrostendo un cotechino sopra un grosso fuoco, fatto con la cesta che si usa per il pane. Dei bottiglioni di vino davanti. Bevono. Bevono e ridono come fossero a una festa. Carissimi, quando venite, ci occorre un po' di sapone per lavarci qui in carcere. Noi stiamo bene. La zucca è arrivata ed è ottima. Soltanto se potete raddoppiare la dose, se è possibile. Non pensate a noi, che stiamo bene. pensate per mangiare e lavorare meno. Non pensate per l'azienda, che se torneremo faremo noi. Altrimenti a voi vi mancano le forze. Vendete tutte le bestie, così il lavoro sarà meno. Anche il cavallo, se dovete comprare il fieno, viene troppo caro. Se c'è la possibilità di ritentare il colpo di liberarci, come si era progettato per gli altri, c'è un uomo in grado di dare spiegazioni perché fa servizio qua dentro. Dunque, se i compagni decidono di agire, lo possono fare. L'operazione non è difficile. Pensate di passare la vita nel migliore modo che vi è possibile. E con questo ci rassegneremo al destino che ci attende. Mamma, pensate per tirare avanti con coraggio e mangiate. Così tutto andrà meglio, anche per noi. Sempre coraggio e tutto sarà niente. Saluti. Gelindo. Antenore. Aldo. Ferdinando. Agostino. Ovidio. Ettore. Il nonno dice che tra poco è tempo di trapiantare i pomodori. Se piove, dopo il 20 di maggio avremo un buon raccolto, ma non deve piovere troppo. E quando la campagna si ammala, che è difficile essere buoni dottori. Ci vuole coraggio e un grande amore per ricominciare. Ma poi, dopo un raccolto, ne viene un altro. Ma raccolto non viene da sé. Bisogna coltivare, faticare perché non vada a male. Il nonno dice che il sole non nasce per una persona sola. La notte non viene per uno solo. Chi lo capisce si toglie la fatica di pensare alla sua sola persona, che anche lui non è nato per uno solo. Così non si ha paura di morire. Cuori di terra, memoria per i 7 fratelli Cervi. Progetto, ideazione e drammaturgia, attori Bernardino Bonzani e Monica Morini. Ideazione e composizione musiche Davide Bizzarri. Alla Casa delle Storie, Reggio Emilia, 23 e 24 aprile 2019. l'autore attore Alessandro Blasioli sul suo spettacolo Sciaboletta, la fuga del re, a Roma, Teatro Brancaccino, giovedì 25 aprile 2019. Alessandro, ben trovato. Ben trovato a te, Federico, ciao. Ce lo presenti? Ve lo presento molto volentieri. Allora, la storia è quella della fuga del re, perché il nostro penultimo re, e contiamo anche l'ultimo, Umberto II, il figlio appunto di Sciaboletta, questo re è scappato la notte dell'8 settembre del 1943 per paura del tedesco che è stato ormai tradito dopo l'armistizio italiano firmato con gli anglo-americani. E io ho scoperto in una mia ricerca per un altro monologo, per un altro spettacolo incentrato sulla storia della mia città natale di Chieti, ho scoperto che il re è scappato ed è scappato in direzione dell'Abruzzo. Quindi ho preso questo pretesto, ho avuto questa l'idea, insomma, di raccontare la fuga e di spiegare il perché il re scappasse, di quale fosse il suo rapporto con il duce, con l'altro personaggio eminente di quel terribile periodo, e spiego quindi dal suo punto di vista le ragioni, le azioni che ha compiuto e le ragioni che ha avuto per scappare, finendo alla fine con una invettiva antifascista, perché secondo me il re è stato appellato in tanti modi, re soldato, Sciaboletta appunto, anche re fascista, ma come dicono lo spettacolo il re non è fascista, il re è monarchico, tiene all'interesse della corona. E quindi secondo me alla fine dello spettacolo lui sbotta in un'invettiva antifascista quanto mai attuale, diciamo così, perché appunto non gliela può fare più, per dirla in romano, almeno ci prova. Quindi tutto è nato da una ricerca di altro tipo? Sì, tutto è nato per uno spettacolo, per un monologo che dovrà far parte di Notturni della città, che è un format che è creato da Andrea Maurizi del Teatro delle Condizioni Avverse di Poggio Mirteto, che prevede anche il tutoraggio artistico di Marco Baliani, e lo scorso anno, proprio in questo periodo, abbiamo fatto, eravamo tre ragazzi, io da Chieti, Diego Coscia da Torino e Fabio Facchini da Milano, e questi tre personaggi in quel di Poggio Mirteto hanno fatto ricerca per le loro di storie nelle loro rispettive città. E io ho trovato una Chieti completamente morta nel secondo dopoguerra, ma piena zeppa di notizie, di fatti anche di rilevanza nazionale accaduti proprio in quei giorni. Non voglio spoilerare, insomma, a quelli che magari non hanno ripassato il periodo storico, non voglio spoilerare il finale dello spettacolo, quindi non dirò niente, però a Chieti sono successe veramente delle cose eclatanti che hanno cambiato le sorti di tutti noi italiani. E quindi questo fatto mi ha spinto a dire no, vabbè, devo raccontare assolutamente questa cosa. Mm-hmm. E lì è nato Sciaboletta. Senti, quindi la figura del re, e per parlare più in generale di quanto avvenne in quel momento in Italia a partire da Chieti? Sì, perché guarda, il fatto è che nei libri di storia, perlomeno da quello che mi ricordo io, da quello che ho studiato, dai miei libri di storia, la figura del re è una figura che durante il ventennio fascista scompare, nonostante noi di fatto siamo in un regno. C'è il Regno d'Italia fino a quando non abbiamo votato per la Repubblica, e in mezzo c'è appunto stata questa prepotenza di Mussolini che il 3 gennaio del 1925 alla Camera si è assunto la responsabilità morale, storica e giuridica dell'assassinio di Matteotti, e quindi ha instaurato de facto la dittatura. Questa cosa ha fatto sì che il re scomparisse addirittura dai documenti ufficiali, cioè non era più nemmeno richiesta, non era più presente con il nome, con la firma, con la sigla, negli atti ufficiali del governo. E questa cosa, secondo me, nel vecchio re 74enne gli accendeva insomma un astio inimmaginabile. Per cui ho immaginato di prendere il suo punto di vista e di raccontare appunto quello che gli è successo, quello che è stato costretto a fare, i giochi che ha creato anche per cercare di spodestare lui Mussolini dal potere, fin quando effettivamente non c'è riuscito, quando l'ha fatto arrestare il 25 luglio del 43. E quindi sì, il punto di vista è quello del sovrano, perché l'ho ritenuto abbastanza comico. Una persona di 70 anni che ha regnato, che è padrone, diciamo, di uno Stato, e che si ritrova dall'oggi al domani spodestato da questo signorotto, io lo chiamo il cinghialotto, perché insomma Mussolini anche dalla satira dell'epoca era raffigurato in questo modo, e questo cinghialotto rivestito che praticamente spodesta il re, e il re è in un rapporto di odio et amo, di amore ed odio, perché da una parte lo ammira, perché anche il re è molto militare, vorrebbe il pugno duro, anche se è piccolino, è agile, è rachitico, quindi non è mai potuto essere forte come Mussolini, e da un lato lo adula per questo motivo, dall'altro chiaramente è una minaccia per la corona, e questa cosa fa sì che il sovrano cerchi in tutti i modi di eliminare Mussolini, così come Mussolini cerca di eliminare il re. Sciaboletta, il nuovo spettacolo dell'autore e attore Alessandro Blasioli. Alessandro, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille Federico e un saluto a tutti quanti. Viva Onda Rossa. Ciao. Ciao. L'autore e attore Alessandro Blasioli sul suo spettacolo Sciaboletta, la fuga del re, a Roma, Teatro Brancaccino, giovedì 25 aprile 2019. Coautore e attore Ariele Vincenti su Marocchinate, in scena a Roma, al Teatro Sala Umberto, giovedì 25 aprile 2019. Ariele, ben ritrovato. Sì, ciao, ciao, buongiorno a tutti, ciao Federico. Allora, per chi ci ascolta, chiaramente presentiamolo, di cosa si parla, cos'è le Marocchinate? Allora, questo spettacolo è un monologo che io faccio, scritto insieme a Simone Cristicchi per la regia di Nicola Pistoia, e racconta un altro di questi fatti rimasti sepolti, nascosti nella memoria della nostra storia, insomma, e quindi racconta tutto ciò che è successo in Ciociaria durante l'avanzata dell'esercito alleato nella Seconda Guerra Mondiale, più precisamente nel maggio del 44. Quando gli americani, insomma l'esercito alleato, dopo mesi e mesi che provavano a entrare nella cosiddetta linea Gustav, che era la linea difensiva fatta dai tedeschi su per le montagne che andava, diciamo, da Latina più o meno, insomma dal Tirreno fino all'Adriatico, fino agli Abruzzi, dopo mesi che gli americani provavano a entrare senza riuscirci, si rivolsero a una parte dell'esercito francese che era composto da soldati, le cosiddette truppe di colore, quindi soldati marocchini, algerini e tunisini, e loro in due giorni riuscirono a entrare nella linea Gustav e andare verso Roma per liberarla. E a questi soldati venne promessa una sorta di carta bianca, anche se non ci sono delle fonti scritte, comunque è stato promesso un qualcosa in cambio della loro azione bellica. E quindi questi migliaia di soldati nordafricani, non appena entrano nella linea Gustav, fanno carne da macello nei confronti della popolazione locale, quindi di decine di paesi della Ciociaria. Sì. E purtroppo si sono verificate migliaia di stupri ai danni delle donne, ma anche di uomini, bambini, uccisioni, rubavano nelle case, insomma veramente una di quelle storie che ti lascia con la mare in bocca, ecco, questo sì. Noi lo raccontiamo in questo monologo, raccontiamo tutto ciò che è successo. E al di là delle fonti scritte, testimoni, cioè, comunque della documentazione, è oggettiva la responsabilità dei graduati dell'esercito francese in questo sì, caso? Sicuramente, insomma, noi abbiamo fatto più di un anno di ricerche, anche perché, sai, raccontare una storia del genere ti dà una grande responsabilità, e quindi ci siamo documentati benissimo con Simone, abbiamo letto, abbiamo intervistato tanti reduci, e quindi sentiamo appunto l'esigenza di raccontare. Questa è un'altra di quelle storie che vanno raccontate, ecco, che la gente dovrebbe conoscere,

Certo, quindi lo ripetiamo, è una serata, uno show, un contenitore, un varietà, diciamo un contenitore di monologhi, stand-up, satire, canzoni, poesie, di un'azione metta sempre all'insegna dell'ironia e del sarcasmo. Mi è piaciuto così che dici, una mescolanza di generi. Stringata, sintetica, esaustiva. Certo. Ogni pezzo è, diciamo, insomma appunto entro gli 8 minuti e abbiamo ogni sera un ospite musicale. Poi vogliamo dire che è un progetto aperto, che insomma coinvolge sempre, è sempre aperto a nuove proposte di attrici e autrici, quindi insomma è bene sottolinearlo, perché siamo sempre pronte ad accogliere insomma nuove proposte. E ha trovato come residenza fissa al momento Monk. E siamo sempre al Monk, dormiamo lì ormai praticamente, ci siamo trasferite, no, ci troviamo molto bene, andiamo in scena una volta al mese lì al Monk, sì. Senti, i tuoi pezzi, per esempio, tu sei anche autrice dei tuoi testi? No, io di solito, insomma, cerco, leggo tutto quello che ci viene proposto, infatti ormai praticamente non leggo più un libro, leggo solo un testo. E diciamo, fino adesso ho portato in scena, ho iniziato con la Simonelli, con Elisa Simonelli, sì, sì. Quindi abbiamo fatto 2 pezzi di Elisa, forse 3, e poi Enrica Tesio e Simona Orlando, anche della tesi ho portato in scena 2 suoi pezzi, e sì, di Simona Orlando anche. Poi ovviamente insomma io un pochino ci metto le mani, mi adatto, ma insomma questo vale per tutti, perché insomma un minimo un testo te lo devi un pochino rendere tuo, quindi insomma d'accordo con l'autrice faccio qualche modifica e insomma le facciamo insieme, ci lavoriamo insieme. Ecco, come ti trovi? Come ti trovi questo binomio artistico a lavorare con un'autrice? Questo secondo me è anche la parte, no, laboratoriale più interessante, di cui comunque crea delle collaborazioni, no, all'interno, anche in maniera appunto naturale, per cui tu, non so, senti dei pezzi, le autrici le senti più vicine al tuo modo di vedere le cose, e quindi poi ci si vede, si lavora insomma insieme. Credo che questa sia la parte anche più divertente, magari anche più difficile, perché non è detto sempre, no, che tutto vada liscio, a volte ci può essere qualche visione diversa, quindi comunque ci devi rimettere le mani, ma è la parte secondo me più interessante, più divertente, anche perché poi quando è in scena è bellissimo, ma c'è sempre quell'ansietta, no? Quindi diciamo che la preparazione a me piace molto. Poi andata in scena, un secondo prima non vorrei morire, ma poi invece subito dopo sono contenta, mi diverto. Senti, quali sono le caratteristiche che apprezzi di più di questo format? Ma sicuramente quello che ho appena detto, insomma, il fatto che nascano proprio delle collaborazioni, e poi anche il fatto che comunque ogni serata è pensata sempre un po' come un debutto, no? I pezzi sono quasi tutti inediti oppure pensati ad hoc proprio per la serata, quindi per quello c'è anche l'ansia, perché insomma è un po' l'ansia di una prima, ecco, e questa secondo me insomma ovviamente prevede un grande lavoro da parte nostra, però insomma credo che sia la cosa più interessante. Bene. del format. Allora ricordiamo l'appuntamento con il volume 12 di Ugo a Roma al Monk venerdì 26 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento all'attrice Cristiana Vaccaro. Abbiamo già finito, ma così? Ma come? Dai, aggiungi del tuo. No, è bellissimo. No, ci vediamo il 26 aprile, grazie. A presto Cristiana, un abbraccio. Ciao. Con l'autore e interprete Nicola Vicidomini per parlare del suo spettacolo Fauno al Teatro Vascello a Roma domenica 28 aprile 2019. Nicola, ben trovato. Ciao Federico, come stai? Tutto bene, tu? Un po' affaticato, però andiamo avanti e ci assumiamo continuamente il nostro senso di onnipotenza divina. Allora, descriviamo un po' faunesca, questo... Faunesca in questo caso. Esatto. Raccontiamolo un po' questo nuovo lavoro, che ci dici? Guarda, raccontare questo lavoro è pressoché impossibile, perché finalmente attraverso questo nuovo lavoro ci viene in teatro. Se prima poteva raccontare qualche piccolissima cosa ai nemici, adesso non avrà veramente nulla da dire. Quindi finalmente siamo arrivati alla dispersione totale del senso, finalmente siamo in un altrove radicale che non ha più contatto con il reale e tutto il suo corollario. Una cosa è il reale, altra cosa è il vero, chiamiamolo così, comodità, vero, quindi può darsi che siamo nel vero, può darsi che sarà il fauno a dircelo. Com'è questo richiamo alla mitologia? Ma guarda, in realtà il fauno è una figura ancestrale, archetipica, pre-mitologica, se parliamo di storia della mitologia, perché è l'antignano del teatro in tutti i sensi, prima ancora di Dionisiaci il fauno era questa figura assolutamente misteriosa, anche inquietante, che nasceva, si dice, dalle viscere della terra, avvolto da questi fumi, e gli uomini preistorici già avevano una paura fottuta di questo fauno. Il fauno che cos'è? Il fauno, come il satiro in senso stretto, è un attentato all'uomo, al retaggio strutturale della sua narrazione, alla sua morale, è un attacco duro all'antropocentrismo, al fatto che l'uomo, senza chiedere nulla a nessuno, sia posto al centro del creato, manco fosse Ecclesias, che abbia considerato la sua narrazione, il suo senso universale, senza paura di mentire, insomma, e abbia esteso questo senso e questo codice a tutto lo scibile, a tutto l'esistente. E vai a chiedere a un coccodrillo cosa ne pensa, voglio dire, cerca di capire, non ti risponde, perché non ti sta rispondendo il coccodrillo? Magari ti ha risposto e tu non hai colto niente del suo silenzio. Quindi il fauno ci ricongiunge al mistero, fondamentalmente, al mistero che siamo, al mistero proprio dell'esistenza, proprio, posso dire, a quel mistero che non troverà mai nessuna collocazione scientifica, che non potrà mai essere catalogato scientificamente. Ma tu, quando entrerai in scena, sarai avvolto dal fumo come un fauno? No, no, fortunatamente no, il fumo in quello che siamo, in quello che facciamo, abbasso l'effettistica, insomma, tutto deve venire dalle nostre cellule, dal nostro corpo, il ritmo, la musicalità, la voce, qualsiasi scena che capitano, l'ilarità condivisa col pubblico, qualsiasi sberleffo, quello viene da noi, dalla nostra necessità epidermica, e quindi abbasso le scenografie, abbasso l'ambientazione, abbasso quanto possa essere decorativo e tutto quanto possa contestualizzare scenograficamente una performance. Bisogna essere sempre fuori luogo e fuori contesto. Come ha avuto origine quest'idea, questa nuova fatica? Da mia suocera. La mia suocera, baronessa Pietra Leonardo Vecchio, io adoro in quanto figura mitologica, proprio la adoro. Paolo è Pietra Leonardo Vecchio, cioè la madre di Deborah, la mia compagna, e lei. E quindi niente, poi partendo da lei, sono tornato a guardare fauni archetipici e ho capito poi la funzione del fauno, questo riportare fondamentalmente l'uomo a se stesso, oltre il senso, oltre la comunicazione, proprio quel piombare di finire in quel mistero, e tutta la comicità è un attentato all'uomo fondamentalmente, non esiste comicità che non sia fantesca o faunesca, che non sia scena, che non frantumi questo senso, tutto quanto si definisca comico, ma che rafforzi questo senso, caldeggi, si loggia in questo senso, e non lo sdogani, non è comicità, perché non è in senso assoluto qualcosa di assolutamente condivisibile, cioè condivisibile appunto da una prospettiva filosofica un poco più, perché è quella poi dello stare al mondo senza tante sovrastrutture borghesi, fondamentalmente senza l'io, e questo io ci ha rotto proprio i coglioni. Fauno per il Vascello, questa prima nazionale, poi che succederà dopo il 28? Poi niente, saremo il 28 al Vascello, poi l'11 maggio al Teatro Vascello, poi il 26 maggio al Teatro Vascello, tre fine settimana, e nulla, per adesso siamo al Vascello, perché poi lo spettacolo ci è pronto da relativamente poco, diciamo, è pronto da poco, e quindi non ci siamo attrezzati ancora per, dici, partecipare alle stagioni con un senso di rispetto verso chi vuole, verso i teatri. Cioè, io propongo uno spettacolo nel momento in cui lo spettacolo è quasi, non dico è automatico, nel suo dispiegarsi, ma è quasi automatico. Il fauno è quasi automatico adesso, però non lo era quando le stagioni sono state messe a punto. Parliamo di febbraio-marzo, fine febbraio, quindi marzo, quel periodo in cui fanno le stagioni. Per cui faremo qualche, sicuramente qualche programma a Napoli, insomma, e spero che i teatri non abbiano paura di prendere atto del grande affronto che rappresentiamo, retorica. In chiusura, Nicola, ci lasci i riferimenti web per tutte le informazioni? Sì, come no, www.facebook.com/Nicola Vicidomini, attaccato, è la mia pagina, gestisco anche io fan, portiamolo, sto pure io, sto facendo barbarie generale, ma io non sono immune da sta cosa, purtroppo siamo spacciati, e quindi poi su Instagram, Baracca Vicidomini, Baracca/Vicidomini, su Twitter, che non uso mai, però volete mandarci anche lì, benvenga, è @n_Vicidomini, questo è, e per il resto stiamo attrezzando, speriamo, speriamo. Allora, ricordiamo il primo appuntamento con lo spettacolo Fauno al Teatro Vascello a Roma, domenica 28 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento a Nicola Vicidomini. A te una cosa importantissima, che anzi due cose importantissime, musiche originali, sono originali perché inedite, assolutamente inedite, dal 74, arrivano in uno scaffale impolverato, casa Umiliani, sono del maestro Umiliani. Mi ha dato a distanza nel realizzare quest'opera, e a distanza perché è morto fondamentalmente nel 2001, e nonostante sia morto lui continua a comporre per il teatro. Quindi tu pensa che abbiamo sconfitto la morte con questo spettacolo, quindi pensa il valore che possa avere, o la mancanza assoluta di valore, il valore non c'è. Sì, e le maschere sono di Demma, di artista milanese. Un abbraccio, ciao. Con il regista attore Massimo Popolizio per parlare dello spettacolo della prima nazionale di Un nemico del popolo al Teatro Argentina a Roma dal 20 marzo al 28 aprile 2019. Massimo, ben trovato. Ciao, ciao, io ciao a tutti. Ciao. Lo raccontiamo brevemente? Sì, in una piccola comunità che cioè, può essere, ma abbiamo deciso che sia nel Kentucky, piuttosto che nel Tennessee, una piccola comunità che è un frammento quindi di una grande società, di una piccola società dove tutti si conoscono, dove esiste un giornale, dove esiste un editore, dove esiste un sindaco, cioè dove tutti i poteri sono ben definiti. C'è la possibilità, diciamo, che un luogo termale, il famoso stabilimento delle terme di questo posto, possa diventare la possibilità di sviluppo, di riscatto di questa piccola comunità, quindi anche di arricchimento di questa piccola comunità. Sta di fatto che il fratello del sindaco di questa comunità, cioè io, il dottor Stockman, scopre che queste acque sono inquinate perché lo stabilimento è stato costruito a valle di alcune concerie. Quindi la prima domanda è rendere pubblico questo rapporto dell'inquinamento, decidere di bonificarle. Questa bonifica costerebbe una cifra spropositata, 1 milione di corone, dice il testo, quindi bisognerebbe rifare tutte le condutture della città, accettare di spargere la notizia che le acque sono inquinate e quindi rinunciare alla possibilità di sviluppo di questa cittadina. E quindi questa è la prima domanda che il testo pone, cioè come coniugare il diritto alla salute, il diritto alla verità, quindi il diritto di sapere le cose, e il diritto allo sviluppo, anche allo sviluppo, quindi al benessere di questa cittadina. In questa prima fase i giornali sono da parte di Stockman, avallano questa grande scoperta, vogliono